Quanta gente passa e se ne va che non sa chi sei. Contarla credo sarebbe inutile in un mondo che è freddo oramai. Stasera ci sei solo tu nella città degli occhi miei. Se è vero che poi fanno la ruggine, io non voglio più piangere così. Prima che ti incontrassi, poi rivedersi ancora come due pazzi, travolti da un'idea che non vuoi che passi, che piano piano scivola giù. Dicevi stasera, dove vai amore? Ora che ho bisogno di te ancora, ancora di più. Ma che bella sei nella tua solitudine. Sembra tutto più facile così. Prima che ti incontrassi, ancora, ancora, ancora come due pazzi, travolti da un'idea che non vuoi che passi, che piano piano scivola giù. Seduti in un bar può capitare a chiunque, ma a noi no, ma che strano effetto.